Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, stasera facciamo parlare un grande protagonista della politica italiana, Gianni Cervetti, classe 1933, che è stato uno dei protagonisti della vita del Partito Comunista e ha attraversato la crisi e le convulsioni di quel partito, soprattutto quelle seguite alla caduta del muro di Berlino. Adesso Cervetti ci racconta le sue esperienze nel libro Compagno del secolo scorso, una storia politica, che è pubblicato da Bompiani, 364 pagine, 19 euro. Cervetti si era iscritto al Partito Comunista giovanissimo e poco dopo l'iscrizione all'Università a Milano a Medicina nel 1955 venne invitato, ma allora per gli iscritti non c'erano molte scelte se non obbedire, a studiare a Mosca fra le élite dei giovani dei movimenti comunisti di tutto il mondo. Cervetti quindi lascia l'Italia, cambia gli studi, imbocca la strada che lo porterà poi a diventare uno dei dirigenti più in vista del Partito Comunista, anche per la posizione assunta spesso minoritaria nel suo partito, quella dell'unità sinistra, cioè di un accordo col Partito Socialista, una posizione che poi si sarebbe espressa nell'impegno riformista all'interno del Partito Comunista, di cui fu leader Giorgio Napolitano. E il libro di Cervetti parte proprio dagli anni di Mosca e ci accompagna fino a oggi, lungo una carriera di cui adesso ci parla appunto l'autore. Buonasera a Gianni Cervetti. Buonasera. Gianni Cervetti, partiamo dalla fine. In una delle ultime pagine del suo libro lei ribadisce il suo interesse per la politica e dice: non potrei farne a meno perché significherebbe il tradimento del maggiore impegno di una vita e una stupida manifestazione di superiorità. Quindi della politica abbiamo sempre bisogno. Certamente, è parte costitutiva della nostra vita ed è per tutti così, non solo per me naturalmente. Senta, allora torniamo all'inizio. All'inizio invece spiega le ragioni di questo libro nel nervosismo, nell'irritazione per sentire troppe sciocchezze in giro e quindi ha deciso di scrivere questo libro. Ecco, quali sono le sciocchezze maggiori che la irritano di più? Ma una sciocchezza molto grande è appunto quella di chi dice che la politica è una cosa sporca. La politica è quello che è quello che decidiamo noi sia, non è nient'altro che questo, insomma. Quindi questa è una critica agli altri che dovrebbe essere fatta semmai a se stessi, non agli altri. Nei suoi anni giovanili trascorsi a Mosca, lei colse alcuni spunti, alcuni elementi, non so bene che parola usare, di antistalinismo, comunque di persone che nascostamente criticavano il regime stalinista, e si spiegava anche il fatto che molti non si opponessero, non si fossero opposti ufficialmente perché questo avrebbe messo in crisi tutto il regime comunista. Ecco, che riflessioni suscitò in lei questa doppia verità o questa verità obbligata per cui non si poteva non essere stalinisti? Ma suscitò in me una duplice sensazione, cioè da un lato la sensazione di una impotenza di coloro che avevano un atteggiamento critico verso lo stalinismo, verso lo stesso Stalin, e dall'altro una sensazione di ineluttabilità di un certo processo storico. Forse sbagliavo, ma comunque queste erano le sensazioni. E infatti, riferendosi a Emilio Sereni, lei dice che appunto anche Sereni in fondo non avesse voluto far prevalere dei drammi e delle tragedie ancora più gravi rispetto a quelle che il regime di allora metteva in luce. Sì, veda, il problema va inquadrato, questo problema che lei solleva, che è un problema ovviamente reale, va inquadrato in quell'epoca storica. Era un'epoca di ferro e di fuoco, come si dice, e così va valutato. Non può essere valutato superficialmente secondo i canoni di altri momenti e di altre epoche. Quello senz'altro. Senta, quando lei ritorna da Mosca a Milano, non è che inizi una carriera chiarissima, nel senso che il partito non aveva le idee chiarissime su cosa farle fare, ma allora perché vi mandavano a studiare a Mosca? Perché tra l'altro quando sono tornato la situazione era mutata rispetto a quando io sono partito. Io sono partito nel 1955, come lei ha potuto notare, sono tornato nel 1961, cioè in un'epoca che anche per l'Italia era già un'epoca diversa. Nel 1955 il boom non esisteva, nel 1961 era quasi alla conclusione. E poi la sua carriera nel Partito Comunista inizia, sarà una carriera che le darà molte soddisfazioni e anche una carriera che non le in qualche momento la costringerà anche a prendere delle decisioni o ad adeguarsi a delle decisioni alle quali lei non aderisce del tutto. E qui lei spesso nel libro usa una formula: accettai come da regola di comportamento in uso. Cioè, la critica non poteva andare, anche per quello che riguardava il proprio destino, la propria carriera, oltre una certa soglia. La critica poteva andare fino in fondo, il problema era quello del comportamento. Il comportamento era un comportamento che non sempre poteva seguire la critica, perché si doveva considerare e si considerava, sbagliando o meno, le condizioni più generali che erano fatte a chi manifestava anche quella critica. E nel fare politica lei pone politicamente una questione importante che fu tra i pochi a porre in quegli anni, e cioè la questione dei ceti medi, i ceti e gli strati medi. Questa questione mi sembra che sia ancora valida per quanto riguarda il radicamento sociale della sinistra e del PD, che è l'erede del Partito Comunista in qualche misura, anche se i ceti medi oggi soffrono forse più di allora. Allora avevano prospettive migliori di crescita di quanto non abbiano oggi. Sì, certo, è proprio così. Io credo che sia vero quello che lei dice. La questione dei ceti medi è una questione permanente in una società nella quale i ceti medi hanno un rilievo a volte non così grande, e questo riguarda situazioni nelle quali questi ceti sono, come dire, più compressi nelle loro posizioni, nelle loro idee, e invece a volte hanno un rilievo molto maggiore. Io credo che in generale abbiano però rilievo per una forza politica, in quanto devono essere sollecitati e considerati per quello che sono effettivamente. Ad essi deve essere dato il posto che aspetta. Un altro tema che lei sollevò e che le assicurò un ruolo particolare nella storia del Partito Comunista è il tema dell'unità della sinistra, un tema sul quale ci furono forti divisioni all'interno del partito. Sì, certo, io credo tuttora che questo tema abbia un grande rilievo e che in realtà in parte almeno si colleghi al precedente tema che lei mi ha sottoposto, quello dei ceti medi, ma naturalmente non lo esaurisce totalmente. È un tema di grossa rilevanza anche questo, continua ad essere tale. Ed entrambi i temi sono alla base dell'impegno della corrente riformista, come vogliamo chiamarla, all'interno del Partito Comunista, che faceva riferimento soprattutto a Giorgio Napolitano. Lei su questo ha scritto un capitolo, il capitolo finale mi pare del libro. Però accenna poco negli anni precedenti al ruolo che Napolitano ebbe nel partito, alle divisioni con Berlinguer, per esempio a tutti i temi che ha sollevato recentemente il libro di Finetti. Beh, ne accenno in parte, ma lo considero un tema che riguarda in generale sia criticamente che autocriticamente molti altri e non soltanto Napolitano. E invece dà un giudizio molto severo su Occhetto e su D'Alema, questo lo possiamo ricordare? Sì, certo, io credo che abbiano svolto una funzione che è stata una funzione tutto sommato limitata e chiusa, e poi abbiano sviluppato una lotta all'interno dello stesso Partito Comunista che ha compresso forze che in realtà dovevano essere invece sollecitate e dovevano avere un ruolo il ruolo che a loro spettava storicamente. Lei fu il dirigente comunista che convinse i suoi colleghi italiani e quelli sovietici a interrompere il flusso di denaro da Mosca a Roma. Come visse il partito quella decisione? Il problema non fu posto molto apertamente, fu una decisione che ebbe un rilievo limitato quanto ad autori che in qualche modo, da protagonisti della decisione medesima, insomma, e quindi non ebbe un grande rilievo, non se ne parlò come era del resto nelle cose, né pubblicamente né ampiamente. Fu deciso così e fu così fatto. Ci dica una cosa che nel libro non è scritto: qualcuno dei suoi avversari nel Partito Comunista le ha mai riconosciuto di aver avuto ragione lei? Una domanda che deve porre ad altri, non a me. Io spero di sì, ma questo non è detto che tocchi a me, anzi non tocca affatto a me sottolinearlo o ritenerlo come un dato di fatto. Grazie a Gianni Cervetti, autore di Compagno del secolo scorso. Buona serata. Grazie a lei, Caruba, grazie. Un'altra esperienza di viaggio in Unione Sovietica, anzi per meglio dire di permanenza in Unione Sovietica, è quella di un grande storico, Claudio Pavone, che racconta anche egli di un viaggio, di una missione, questa molto più breve di quella di Cervetti, durerà infatti poco più di un mese, in Unione Sovietica. E ce la racconta in Aria di Russia, diario di un viaggio in URSS, la terza, 218 pagine, 20 euro. Assieme a un altro noto storico, Giampiero Carocci, Pavone fu nell'Unione Sovietica per un programma di scambio italo-sovietico sui documenti italiani presenti negli archivi russi e partecipò alla conferenza internazionale sulla resistenza che si tenne in Cecoslovacchia, questo nel 1963. Di quel viaggio Pavone tenne un diario che è appunto contenuto in questo libro, e il quadro che gli si para davanti quando arriva in Unione Sovietica non è certo dei più confortanti. Appena arrivato a Mosca, infatti, Pavone incontra uno spettacolo, cito dal libro, di disastri e di squallore che mi colpisce con una intensità che, pur preparato, mi coglie quasi di sorpresa e mi impedisce di avere ricordi precisi. Sono anni particolari, questi intorno al 1963, gli anni in cui si avvia il disgelo di Khrushchev, che pochi mesi dopo sarebbe stato deposto. E un interlocutore parla in questi termini di quella esperienza, appunto, del disgelo. Vede: noi abbiamo perso il vecchio equilibrio e non abbiamo trovato ancora il nuovo. Siamo in una fase difficilissima, purtroppo, aggiunge. Anche alcuni compagni comunisti italiani pretendono ora di farci la predica con aria di sufficienza e questo ci offende. E non mancano naturalmente nel libro, come avete sentito, riferimenti ai comunisti italiani, anche agli intellettuali. Per esempio sono riportate le critiche che al sistema sovietico aveva avanzato l'editore di cui porta il nome la casa editrice che pubblica questo libro, cioè Vito la Terza. E si parla della vita in Unione Sovietica, dei problemi politici, economici, della crisi con la Cina e del metodo storico adottato in Russia e in Italia. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un viaggio a Mosca che non poté avere luogo fu quello che aveva progettato Giovanni Falcone per il 1992. Pochi giorni dopo l'attentato che lo uccise il 23 maggio, infatti Falcone si sarebbe dovuto recare a Mosca. La Mosca che avrebbe trovato Falcone era certamente molto diversa da quella descritta da Cervetti e da Pavone. L'Unione Sovietica non c'era più. E Falcone avrebbe dovuto andare in in Russia perché invitato a partecipare, a collaborare a delle importanti inchieste che si stavano conducendo in quel periodo sul tesoro del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. E di questa vicenda parla un giornalista italiano, Francesco Bigazzi, assieme a Valentin Stepankov, che in quegli anni era procuratore generale della Russia, fu l'ultimo procuratore generale dell'Unione Sovietica e il primo procuratore generale della Russia. Il libro si intitola Il viaggio di Falcone a Mosca, indagine su un mistero italiano, è pubblicato da Mondadori, 144 pagine, 20 euro, ed è completato con due contributi di Carlo Nordio e Maurizio Tortorella. Questa appunto è una pagina oscura che riguarda l'inchiesta di Stepankov che stava conducendo sui rapporti anche con i movimenti comunisti internazionali e addirittura con le frange più estreme. Falcone entrò in contatto con Stepankov, che arrivò a Roma per incontrarsi, e proprio in quell'occasione Falcone confidò al collega russo che il presidente italiano, che a quell'epoca era Cossiga, lo aveva incaricato di esaminare sotto tutti gli aspetti il modo in cui era stato speso il denaro pervenuto ai comunisti italiani dall'URSS, in particolare se fosse stato impiegato per finalità terroristiche, ma appunto l'attentato gli impedì di andare avanti su questa inchiesta. Nel libro di Pavone si parla di un appuntamento che era imperdibile in quegli anni a chi si recasse a Mosca, cioè la visita alla mummia di Lenin. Pavone usa proprio questa parola, mummia. E Pavone si chiede cosa aggiunge alla verità che per noi Lenin vederne così il corpo. Questo tema del corpo del leader è un tema significativo, a lungo studiato, che assume in certi casi un significato quasi sacrale, come è stato per tanti decenni nel caso di Lenin e anche di Stalin per molti anni. E di questo aspetto parla Giuliana Perotto nel libro Oltre il corpo del leader, corpo e politica nella società postsecolare, pubblicato dal Melangolo, 214 pagine, 16 euro, in cui si parla appunto del doppio processo di personalità politica e di perdita del senso del futuro in politica, che spiega come l'aspetto del corpo fisico del capo assuma in tempi moderni un valore sempre maggiore. E nel libro si cita anche il caso di Berlusconi, al quale rivolgiamo gli auguri di pronta ripresa. Ci sono tre corpi, secondo Perotto: il corpo mediale, che ci bombarda da tutti i mezzi di comunicazione, il corpo politico, cioè quello collettivo, che è al principio di rappresentanza, su cui l'autrice manifesta tutto il suo scetticismo, si contrappone nell'interpretazione che dà la tradizione liberale, e in fondo il corpo per mixtum, questa è una parola tratta da Sant'Agostino, ossia quella che assume un valore trascendente. Una civiltà che attribuì alla figura fisica del sovrano, presentato in tutta la magnificenza possibile, una particolare importanza fu quella bizantina, di cui fu uno degli artefici l'imperatore Costantino, quello dell'editto di Milano, oggetto di un poderoso ma leggibile studio di un noto storico, Alessandro Barbero. Il libro si intitola Costantino il vincitore, pubblicato da Salerno, 850 pagine, 49 euro. Costantino è certamente una delle figure storiche più conosciute, ma oggi anche più controverso. Gli storici in fondo discutono ancora oggi della sua eredità e del suo rapporto col cristianesimo. Costantino non fu uno stinco di santo, e anzi, così ce lo descrive nelle prime righe del suo libro Barbero. Spazzati via i dubbi degli studiosi ottocenteschi, che insistevano sul carattere strumentale dell'avvicinamento di Costantino al cristianesimo, tutti gli specialisti oggi riconoscono in lui un cristiano convinto che partecipava attivamente alla vita della Chiesa, intervenendo perfino nel dibattito teologico. Ma è possibile anche un altro racconto. Costantino è un usurpatore che diventa unico imperatore romano, sconfiggendo e uccidendo tre colleghi, di cui uno era suo suocero e gli altri due i suoi cognati. Nessun altro al mondo è mai riuscito ad ammazzare così tanti imperatori romani. Eliminati tutti i rivali e divenuto unico padrone dell'impero, Costantino fa uccidere il figlio maggiore Crispo e la seconda moglie Fausta, anche se non sappiamo perché. Subito dopo la sua morte, i suoi figli uccideranno in un bagno di sangue quasi tutti i fratelli e i nipoti superstiti di Costantino, e poi si ammazzeranno fra loro finché non ne rimarrà uno solo. Questa immagine shakespeariana, sanguinosa e tragica, non è il frutto di una tradizione ostile, alternativa rispetto all'immagine santificata del Costantino cristiano. sono tutti fatti accertati che dobbiamo cercare di far coesistere con le scelte religiose dell'imperatore. Costantino, insomma, è un personaggio enigmatico e le fonti che dovrebbero permetterci di capire chi era sono sì relativamente abbondanti, ma parziali, deformate e disperatamente lacunose. La figura di Costantino quindi è assai meno limpida e lineare di come ce l'abbia descritta la geografia che l'autore studia attraverso le fonti, alcune anche insolite, per esempio le monete e le epigrafi, monete nelle quali Costantino continuò a farsi definire Dio. E tra l'altro il libro mette in dubbio che l'importanza decisiva del ruolo che ebbe Costantino sulla legittimazione del cristianesimo. Anche l'arco che porta il suo nome a Roma, l'arco di Costantino, suscita più problemi di quelli che sembrerebbe risolvere, perché lo troviamo sacrificare a Diana. Insomma, questa è un'appassionante ricostruzione di un personaggio che comunque si rivelò capace di costruire un autentico mito di se stesso. Lo splendore della civiltà bizantina si riverberò anche sull'Italia. Chi voglia scoprirne o ripassarne l'importanza può leggere il libro di Giorgio Ravignani, che è un bizantinista a Venezia e che ha scritto Andare per l'Italia bizantina per il Mulino, 156 pagine, 12 euro. I bizantini furono in Italia per 5 secoli, diffusi a macchia di leopardo per tutto il paese, tranne un breve periodo di intero dominio sull'Italia. In ogni caso lasciarono in molte regioni e città dalle testimonianze importanti della loro presenza. Per esempio, molti dei caratteri dell'attuale Venezia sono dovuti proprio all'influsso bizantino, e non a caso Venezia viene definita la più bizantina delle città italiane. E il libro ci fa da guida a scoprire queste meraviglie artistiche e architettoniche che confermano quanto sia stata rilevante la presenza di Bisanzio in Italia. Ultimi arrivi. Vi segnalo due libri italiani sulla mafia. Il primo è un romanzo di un esordiente appassionato di decadenza, come scrive lui stesso. Si chiama Isidoro Meli, ha scritto La mafia mi rende nervoso, è pubblicato a Frassinelli, 208 pagine, 17,50 euro, in cui incontriamo un Tommaso che racconta la sua storia di figlio di un boss mafioso ucciso e lui stesso adottato dalla cosca del padre. Una realtà opprimente, quella della mafia, che però non distoglie il protagonista da costruirsi una reazione del tutto particolare e speriamo vincente. Il secondo invece è un saggio di Antonio Laspina, un sociologo, che si intitola Il mondo di mezzo, mafia e antimafia, pubblicato al Mulino, 208 pagine, 15 euro, che aggiunge all'analisi delle vecchie e nuove mafie una riflessione sulle antimafie, quelle inautentiche o fasulle, come scrive l'autore stesso, per concludere con un'agenda certamente impegnativo per annientare, si propone l'autore, le mafie. Poi vi segnalo due romanzi. Il primo è di un italiano, Marco Scardigli, che ha scritto Celestina, il mistero del volto dipinto, è pubblicato da Mondadori, 356 pagine, 22 euro, che ci porta nella Novara di inizio Novecento con un delitto, l'indagine sul quale scoperchierà molte pentole sugli ambienti militari e sulla vita di provincia nel periodo della Belle Époque. E infine vi segnalo un romanzo di un celebre americano, scomparso l'anno scorso, che fu anche pilota militare, James Salter, di cui Guanda pubblica il primo romanzo, che uscì nel 1956, e Per la gloria, e proprio dopo aver pubblicato questo romanzo Salter lasciò la carriera militare. La traduzione del libro è di Katia Bagnoli, 282 pagine, 18 euro, e si tratta di un romanzo di guerra, siamo durante il periodo del conflitto di Corea, che è considerato ormai un classico. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di viaggi, allora ve ne propongo uno dei più belli e fantastici, quello di Astolfo sulla Luna, ovviamente di origine ariostesca, che troviamo nel libro di Angela Ragusa, pubblicato per Il Battello a Vapore, 134 pagine, 9 euro, illustrato da Paolo Daltan, che porterà i più giovani a scoprire questa avventura incantata del grande poema di Ludovico Ariosto. Prima di salutarci ricordiamo un grande imprenditore, uno dei protagonisti dell'industria italiana, Vittorio Merloni, che è scomparso pochi giorni fa e che probabilmente non ha fatto in tempo a vedere un libro che gli è appena stato dedicato, pubblicato dal Mulino. Il titolo è Vittorio Merloni, un imprenditore olivettiano. I curatori del libro sono Valeriano Balloni e Paolo Pettenati, i quali sono due economisti, allievi del grande economista Giorgio Fuà e docenti all'Università di Ancona, quindi espressione di quel modello economico marchigiano che rese possibile il grande successo della famiglia Merloni e in particolare di Vittorio. Il libro, vi dicevo, è pubblicato al Mulino, 120 pagine, 12 euro, ed è costruito intorno al discorso che Merloni fece quando si insediò come presidente della Confindustria il 6 maggio del 1980. Qui troviamo quel discorso, e in questo discorso emergono, secondo i curatori, lungimiranza, senso pratico nei rapporti con la politica e con i sindacati, acuta sensibilità per il ruolo di innovazione che deve svolgere l'imprenditore nella sua fabbrica e nella società. Poi ci sono altre testimonianze, tra le quali una di Romano Prodi, che mette in luce appunto l'esigenza di privilegiare l'economia reale sulla finanza. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Carmelo Lauricelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.